Al Madrid Roma anche la sfida tra Carbonara e Paella, voi che cosa preferite? Pardo, è vietato rispondere tutte e due. Pardo. No, io adesso dico una cosa per la quale poi mi toglieranno la cittadinanza che non ho più, fra l'altro pur essendo romano preferisco la paella alla carbonara, però se parliamo di cacio e pepe o amatriciana, insomma il livello, direi il livello sale, no? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Video turista che arrivi, tembevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi, fontana de trevi che è tutta per te. Ancora Salah, tiene il pallone, Salah cerca il movimento in mezzo, la parte di Dzeko, Dzeko, Dzeko sul fondo, Dzeko sul fondo, si divora l'1-0. C'è un po' di campo per Dzeko che cerca Salah, Salah, Salah, Salah, che occasione, che occasione! Che occasione per la Roma. Florenzi verso Salah, possibilità per uno contro uno, c'è Sergio Ramos, arrivano in quattro, Salah, il pallone diventa un flipper, ancora Salah, Salah, Salah! Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Ancora Modric verso Danilo, Digne deve scalare, uno contro uno, cerca il doppio passo, occhio al cross in mezzo verso Cristiano, 1-0 Real, eccolo qui, il 40° gol stagionale di Cristiano Ronaldo, che sa di beffa e come. Arrivederci Roma. Quindi l'apertura verso Cristiano Ronaldo, accompagna il movimento James Rodriguez, il tocco è per lui, James Rodriguez, palla sul mancino, 2-0. 2-0 Real, nel giro di 2 minuti il Real Madrid chiude la pratica. Stasera la vecchia fontana racconta alla solita luna la storia vicina e lontana di quell'inglesina col naso all'insù. Bisogna essere realisti, 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno, zitti e a casa. E guai a chi è sollevato dalla prestazione, guai a chi fa un complimento, dice ma qui si è fatto bene, si è fatto male, tutte e due le partite, perché era un passaggio del turno dove noi ce la dovevamo e ce la potevamo giocare. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Hai fatto outing, ho sentito prima. Ah, sulla matriciana? Sì, ma io non amo la carbonara, ho questo problema, insomma, ne ho tanti, ma questo è forse il principale, non amo la carbonara. sei assolto, non ti preoccupare. Era un sogno molto hard quello che hai raccontato ieri sera dal Bernabeu, normale svegliarsi fuori dalla Champions. Sì, normale, era un sogno hard, però insomma ha avuto delle connotazioni che l'hanno reso ancora più amaro. Perché forse da un certo punto di vista sarebbe stato più rassicurante perdere senza avere mai l'illusione di poterla riaprire. Però io credo che si debba partire dalle parole di Spalletti, sì. perché sono le parole. Mi è piaciuto molto. Voglio subito chiarire, visto che ieri sera l'ho fatto un tweet e allora mi hanno cominciato a dire: e allora quando parlate delle sconfitte a testa alta, noi siamo noi. Cioè noi letteratura del rugby è piena di onorevoli sconfitte, no, la gente dire, contenta spesso. Se noi analizziamo dall'esterno una partita come quella di ieri, è ovvio che è una sconfitta completamente diversa, per esempio rispetto al 6-1 di Barcellona. Non c'è dubbio, e dobbiamo sottolinearlo, perché non sottolinearlo significherebbe essere intellettualmente disonesti. Lo fanno pure in Spagna. In Spagna c'è la copertina di Marca, che è appunto la prima pagina di Marca, che dice avanti con sudore. Sottolineando le tante occasioni che ha avuto la Roma, quindi questo è ovvio e fa parte di chi dall'esterno commenta una partita e quindi dice, tanto per essere chiari, che la Juve a Berlino ha perso a testa alta, che la Roma con il Real Madrid ieri ha perso a testa alta. Poi c'è l'ossessione della vittoria è qualcosa che hanno gli agonisti, le squadre, certo, gli allenatori. È chiaro. L'ossessione della vittoria ce l'ha anche il Real Madrid in questo caso, cioè se tu sei costruito per vincere hai l'ossessione della vittoria. Assolutamente. E comunque vai a valutare le prestazioni, no? No, ma è la differenza tra un discorso critico, analitico fatto dall'esterno, chi giudica quello che vede, di un discorso invece didattico, che è quello che ha fatto ieri Spalletti. Sì. Ieri Spalletti ha detto alla città di Roma, almeno quella di fede romanista, alla sua squadra, forse anche alla stampa che si occupa di Roma e ai tifosi, ha detto che bisogna cambiare la mentalità, che non certo. ne può più di grazie allo stesso. Guarda, secondo me queste dichiarazioni fanno il paio proprio con il suo atteggiamento da quando è arrivato a Roma, cioè si sposano perfettamente con il suo atteggiamento, con l'atteggiamento che Spalletti ha da quando è arrivato a Roma. Sentiamo un'altra battuta di Spalletti. L'essere tranquilli o soddisfatti di queste due partite qui è una cosa che mi angoscia un po', perché cioè figurati a che livello eravamo caduti come testa e come possibilità se siamo contenti dopo aver perso due partite 2-0 o se siamo tranquilli dopo aver perso due partite 2-0. E bisogna prendere atto della realtà velocemente, senza andarsi a raccontare le favole, perché sennò poi diventa più lunga la strada, diventa ancora più dura. Così ancora Spalletti, 800 24 00 24 per intervenire. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Francesco Totti. Emozione perché erano ricordi bellissimi, vuol dire che a calcio hai dato tanto e questi sono ringraziamenti veramente da uno stadio strepitoso. Qui ce ne intendono di calcio, i grandi giocatori li conoscono. Quello sì, è già l'unico rimpianto che ho avuto. L'unico rimpianto che ha avuto, ti ha detto Totti ieri sera, Pardo, sì, quello sì, di non quel giorno di aver detto no, resto a Roma. Beh, insomma, se ci fosse stato un giornalista un po' più lucido, un po' più presente a se stesso, se l'avrebbe anche chiesto, diciamo, a prova di scema, come diciamo noi a Roma, cioè se era esattamente quello il riferimento, anche se non ci sono grandi dubbi. Beh, ero io il giornalista, ovviamente. Nel mischione della zona vita. No, ma domanda pleonastica, forse, no? Sì, domanda pleonastica, ma credo che... Ma insomma, poi sai, penso sempre che ogni intervista deve essere contestualizzata, nel senso che un conto è un'intervista voluta, cercata, richiesta addirittura dall'interessato, come quella di TG1. Ieri era una zona mista, quindi era quello che noi in gergo chiamiamo il mischione, con 25 telecamere, 58 microfoni, a caldo. Ma io l'ho visto felice, perché secondo me ieri Spalletti gli ha fatto non un regalo, perché se lo merita, però io credo che nella gestione dialettica del rapporto Spalletti-Totti, l'ingresso in campo di ieri sera con conseguente standing ovation, sì, anche qui adesso sai che il dibattito delle ultime ore è se sia stata meno standing ovation di quella di Del Piero. È stata meno, perché Del Piero aveva fatto doppietta. No, ma sai che sul web c'è la scala Mercalli, sì. Però il punto, l'applausometro con Topolino che batte le mani, ma dai, facciamo un applauso ai tifosi del Real Madrid, sì. No, perché comunque c'è, cioè, secondo me, grande eleganza riconoscere i grandi campioni che vengono fuori e che giocano in una squadra diversa dalla tua. Il secondo, la standing ovation c'è stata, gli applausi ci sono stati, non erano soltanto il settore ospiti, erano praticamente tutto lo stadio. E Spalletti, secondo me, ieri ha fatto un gesto bello nei confronti di Totti, perché gli ha concesso, anche perché gli serviva, perché da, però insomma, comunque è stata una cosa elegante da parte di Spalletti. In questo caso si sono d'accordo con te. Senti, posso salutare, anzi devo, voglio salutare un gradito ospite per la prima volta ai nostri microfoni, altro esponente della scuola fiorentina degli allenatori, che è l'ultima moda dell'anno. A Novara, partito per salvarsi, è in zona playoff in Serie B. Marco Baroni, buongiorno. Buongiorno ciao a tutti. Marco. Ciao. Com'è questo esordio, Marco? Com'è questo esordio? Ti senti emozionato? C'è un po' di miedo scenico, cioè, come Bernabeu. Uno che ha segnato il gol dello scudetto a Napoli, vedi come è emozionato. No, siamo emozionati noi nel caso. Sì, assolutamente. Mi spieghi dal punto di vista dell'allenatore il discorso, secondo me, di Spalletti di ieri sera, che arriva non a caso in una città, Roma, che già è molto innamorata della squadra, di suo, anche quando le cose vanno male, che poi negli ultimi anni è stata campionessa del mondo di secondi posti, e quindi diciamo che la religione del grazie lo stesso, no? Delle imprese che sfumano per poco e la gente comunque è contenta o perlomeno accarezza la squadra, ecco, questo tipo di cultura mi sembra che Spalletti ieri con le sue dichiarazioni abbia dato la sensazione di volerla combattere, no? Sì, assolutamente, assolutamente, mi sono piaciute le sue dichiarazioni, perché ha voluto lui stesso alzare un po' l'asticella, ha voluto responsabilizzare tutto l'ambiente, perché nel calcio il rischio di così di accontentarsi, no? Di una bella prestazione a volte non serve, bisogna chiedere sempre di più a noi stessi, ai calciatori, all'ambiente. Quindi mi è piaciuta molto, perché era un appello proprio sentito. Lui vuole è carico, vuole fare qualcosa di importante, si percepisce. Ha avuto un impatto veramente incredibile sull'ambiente, sulla squadra, e non è facile vedere così in poco tempo un cambiamento, no? Proprio di passo, di mentalità della squadra, e quindi lui ieri ha proprio chiesto questo, cioè io non mi accontento, e quindi i giocatori in primis, credo il messaggio fosse rivolto principalmente a loro, ma anche all'ambiente, seguitemi, ecco, perché sì, io voglio di più. Era cambio deciso rispetto alla precedente gestione, poi ognuno ha il suo modo di celebrare le onorevoli sconfitte, di trovare alibi o di non cercarli, però in questo caso Marco diceva Pierluigi, fa il paio, queste dichiarazioni si accompagnano all'atteggiamento che Spalletti ha avuto fin qui, cioè è arrivato, non guardo in faccia a nessuno, il mio compito è portare sulla squadra a costo di litigare, di andare contro Totti, eccetera. Sì, anche se io devo dire la verità, ho apprezzato anche come lui ha gestito la situazione Totti, perché ha reso onore tutto a un calciatore fantastico, strepitoso, che ha dato tantissimo, e quindi lui non gli vuole togliere niente, però sa benissimo come tecnico, come allenatore, che c'è un percorso, il nostro compito è di guardare sempre gli interessi della squadra in primis. E quindi a me sembra che abbia gestito bene anche questa situazione. Ecco, purtroppo certi giocatori non vorremmo mai che smettessero, però Totti sta ancora bene, può essere ancora importante, lo sarà sicuramente sia in campo che fuori, ma lui mi sembra che ha fatto prevalere gli interessi del gruppo, ma proprio dando un segnale di forza. E lui vuol cambiare, che vuole forse, ecco, invertire questo modo che dicevate prima di accontentarsi un po', e quindi mi è sembrata una linea molto coerente, devo dire la verità. Pier, tu hai detto però che Totti l'hai visto felice, io ho visto anche una bella Roma ieri sera. Sì, ho visto una bella Roma, ecco, qui poi appunto... Non è che in Italia non giochi contro il Real Madrid, onestamente, il monte talento del Real Madrid qui non questo trovi, ribadisco, è la risposta implicita a chi dice allora non bisogna parlare di sconfitte onorevoli. No, noi ne parliamo di sconfitte onorevoli, perché se noi liquidassimo la prestazione di ieri sera come una tragedia sportiva, o come 7-1 il Bayern, o 7-1 di Manchester, quelle erano eurofigurarce che hanno avuto ripercussioni pesanti sul cammino della Roma. Questa secondo me può avere solo ripercussioni positive, sinceramente, perché la Roma ieri ha dimostrato di essere in questo momento ancora una buona squadra con qualche problema, nel senso che il livello qualitativo di alcuni giocatori è buono, ma non ottimo. La differenza, io penso che ieri chiaramente è un gioco fantacalcistico ad attaccanti invertiti, la Roma vinceva, no? E mi riferisco soprattutto a Dzeko, metti Cristiano Ronaldo di qua e Dzeko di là, e vediamo chi passa il turno molto banalmente. La scelta di Dzeko vi ha convinto? Marco, nel senso che... Ma è difficile dare queste valutazioni quando sei di fuori, perché comunque un tecnico che vede tutti i giorni, vede anche la crescita di un giocatore, vede a volte la necessità di dare fiducia a un calciatore, quindi io credo che sicuramente è un giocatore che ancora può esprimere molto, quindi sai, quando ti capita delle occasioni come è successo ieri e non le concretizzi, è chiaro che ti rimane sempre quel dubbio, no? Però io credo che la cosa importante è che veramente la Roma, ecco, è importante, ma è anche, dispiace un po', ha dimostrato che nelle due partite poteva veramente passare, se certi episodi fossero stati diversi, ecco, magari in questo momento non staremmo a parlare di una bella Roma ma uscita fuori, ma sì, di una Roma che però non ha torto Pardo che dice alla fine, parliamo tanto del collettivo da Arrigo Sacchi in giù o in su, però il colpo dei singoli soprattutto in Europa, questo è una delle poche certezze. Certi giocatori cambiano il volto e i percorsi delle squadre, delle ambizioni e degli allenatori, e purtroppo i finalizzatori sono quelli che poi spostano i valori in maniera devastante nel risultato, ecco. Quindi si può giocare bene, ma se là davanti non la metti dentro, poi è influenzato molto, no, dal risultato che non viene. Quindi io credo che, come avete detto, ad attaccanti invertite, chiaro, sarebbe cambiato il risultato. Sì. Un'ultima cosa, Marco, dimmi del Novara. Partiti per la salvezza, adesso siete terzi. Sì, noi ci godiamo questo momento, ma non siamo contenti, nel senso... Fai come società... Spalletti. Sì, assolutamente. No? Io poi sono uno che pretendo molto a me stesso, prendo molto dalla squadra, perché è giusto. Il nostro primo obiettivo di una società che... una società straordinaria, importante, perché comunque negli ultimi anni veramente ha fatto delle cose eccezionali. Abbiamo un centro sportivo insomma, che è un po' un fiore all'occhiello, però aveva bisogno di trovare stabilità anche, no? Quindi scesa dalla categoria, dalla Serie B, ha ritrovato subito una promozione, ci siamo riproposti in questo campionato. Quindi era per noi importante mantenere la categoria. L'obiettivo è stato raggiunto, adesso proviamo a rimanere protagonisti, ecco, questo è l'intento mio, dei giocatori, di un gruppo di ragazzi veramente straordinario, che dà soddisfazione perché vengono al campo con grande voglia, con grande spirito di crescita e di miglioramento, e questo mi rende orgoglioso. E accontentarsi mai, grazie mister. No, mai, assolutamente. A presto, grazie. Ciao. Marco Baroni, ciao. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Tra l'altro, sai che autore anche del gol numero 3000 del Napoli in Serie A, a Bologna. Tutto fatto. Gol alla Lazio nell'ultima giornata e scudetto del 90 al Napoli. Ma sei un biografo. De Luca è biografo, figurati. Ah, De Luca, te pare, cioè... Come sta De Luca? Molto bene. È stato 24 ore con Ciro Ferrara, ormai dallo scudo a portata, senza averlo parlare, per l'altro. Senti, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Tutti convocati. Poi torniamo sulla Roma se volete, ma intanto la tarantella siciliana. Per raccontarvi il folle martedì del Palermo, e il mercoledì promette di essere quasi alla stessa altezza. In mattinata arriva Zamparini per parlare, colloqui individuali con i giocatori e con Iachini. Tensione alle stelle, Iachini decide di andarsene, di dimettersi da allenatore del Palermo. Esce Zamparini dal campo di allenamento e viene contestato. Palermo non sono più presidente, te ne devi andare. No, Zamparini, te ne devi andare, basta. No, sei tu, però basta, la gente è stanca. È stanca di tutto quello che sei. Io sono stanco di Palermo, molto stanco. Presidente, Iachini rimane allenatore del Palermo? Ma Iachini è allenatore del Palermo. Cosa le ha detto? Cosa gli ha detto a Iachini? Cosa ha detto lei a... Il silenzio bravo, di questa città. Non per i coglioni. Il silenzio di questa città fa parlare te. Ecco com'è. Bene, Dopo questo Zamparini prende un aereo in direzione Milano, poi riceve la telefonata del solito noto Giuseppe Cruciani e spiega la situazione così. Ma io perché cazzo devo avere una squadra e devo star zitto? Ho detto ha giocato male, perché ha giocato bene. E lui si è incazzato. Ma perché difendete sempre gli allenatori? Io non riesco a capire questo da voi. Ma no, non sto difendendo, figurati se lo difendo, sto dicendo sempre. Questo è un deficiente che sta facendo giocare male la squadra. E perdere partite. Nelle ultime 13 partite ha fatto la media di 0,7 a partita. Per cui un campionato farebbe 27 punti, no? E a un certo momento non accetta neanche che noi diciamo cazzo, cerca di mettere la squadra meglio in campo, perché entra in campo con la mentalità perdente. Bene. A quel punto Zamparini, come promesso, richiama Ballardini, che, con il quale aveva rescisso il contratto, lo ricordiamo. Ballardini, per tornare, però, chiede la testa di Sorrentino, il portiere del Palermo che lo aveva in pratica esonerato in diretta dopo a Verona. La cosa che credo che è venuta fuori oggi, che la squadra ha giocato da sola, la squadra ha vinto, la squadra ha giocato senza aver preparato nel miglior modo possibile la partita, una partita decisiva, una partita che vale 6 punti, non ne vale 3, però la squadra ha dimostrato di avere un cuore. Allora, Ballardini chiede la testa del portiere, chiede la testa di Sorrentino, e allora in serata Zamparini ci ripensa, voglio respingere le dimissioni di Iachini, anche la squadra prega l'allenatore di ripensarci. Ho dato l'ordine di rifiutare le dimissioni di Iachini perché non ci sono altre soluzioni in questo momento qui. Iachini è allenatore del Palermo, punto. Salvo che questa mattina Iachini, allenamento del Palermo, non ti presenta. Cosa ti sei perso, Pierluigi, da Madrid? No, io vorrei innanzitutto sottolineare il contributo, come sempre, diciamo, di temperanza, di diplomazia per appianare i problemi del signor Cruciani. Tutte le volte che c'è, lo diciamo, lo ribadiamo, anche se avete delle discussioni condominiali, degli attriti in famiglia, voi chiamate Cruciani. Mette a posto la situazione. Lui arriva e spacca tutto. Porta pace, porta serenità. È una specie di Kofi Annan di Radio 24. Esattamente. Esattamente. Sì, no, ha fatto bene a chiamare Zamparini, perché non è altro, fa il suo lavoro. Il punto vero è che siamo alla follia. Siamo alla follia totale. Io è talmente surreale, talmente grottesca che non... È difficile mettere dei punti, ci proviamo. Allora, sicuramente Zamparini ha pienamente il diritto di esonerare chi vuole. Sì, e anche non lo so, ma non c'è un limite, non esiste un limite. No, il limite c'è sicuramente. Quantomeno alla pubblica decenza. Anche perché questa squadra comunque secondo me è stata indebolita durante l'estate ed è stata indebolita secondo me dal primo esonero di Iachini. Sì. Che se guardiamo bene non ha semplificato le cose come al Sassuolo non semplificò l'esonero di Francesco. È chiaro che questo a differenza di quel di Francesco lì, Valesani che non fece punti se non sbaglio in 5-6 partite e poi tornò di Francesco, tornò molto caldo, molto carico, molto motivato e diverso. Qui sicuramente in questo Zamparini potrebbe anche avere ragione. Iachini non, cioè la cosa non c'è stata nelle ultime partite, anzi la squadra sta veramente precipitando, quindi questo è indiscutibile. Io sono dell'idea che forse se si fosse fatto un percorso un pochino più tranquillo, un po' più sereno, dando fiducia all'allenatore che comunque che aveva l'appoggio mi sembra quello... della squadra comunque. Sì, ma non solo per questo, perché poi c'è l'appoggio della questo squadra. Conta. Questo conta, ma non deve diventare la squadra che autoesomera, che esomera o che ha poi quelli italiani che assume gli allenatori. Assolutamente, quindi questo sì è un nice to have, è una cosa più bella da avere, ma secondo me la cosa fondamentale è che Iachini ha dimostrato delle cose a Palermo. La squadra non è così forte, la vera novità è che c'è il Frosinone soprattutto lì, che dietro è tornato a correre perché insomma la sostanza è che se non ci fosse stata questa crescita da parte del Frosinone, se il Frosinone oggi avesse 5-6 punti in meno, sì, Palermo sarebbe in una brutta situazione. Ma questi non hanno mollato, non così disperata. Tra l'altro ha un pessimo calendario, con tutte le grandi. Insomma, è una situazione molto, molto complicata, molto malmessa. C'è ancora tempo per recuperare, però... Ma recuperare adesso non è chiaro dove si voglia andare, no, perché allora... E soprattutto, scusami, anche se è sincero Zamparini nel dire Iachini all'allenatore del Palermo perché non abbiamo in questo momento alternative migliori, però è un discorso che dal punto di vista dell'energia per lo stesso Iachini e per la squadra è drammatico, è catastrofico, quindi sì, ma poi le ultime sono che Iachini non ne vuole più sapere, c'è chi scrive la storia di Iachini, è passato il campionato, Napoli avvantaggiato, eccetera, le solite cose. Iachini non ne vuole più sapere. Allora, adesso Colomba, Corini e Novellino, che noi avevamo cercato stamattina, però è stato cercato anche da Zamparini. Adesso stiamo provando a rintracciarlo. Le ultime per vedere chi l'ha trovato prima. No, l'abbiamo trovato prima noi. Ah, ok. Poi è uscito un tweet di Di Marzio, ha detto Novellino verso il Palermo. L'ultima notizia è che Novellino si incontrerà nel pomeriggio con Zamparini. Nel frattempo noi stiamo provando a telefonargli, vediamo se riusciamo a cavarne qualcosa. Tanto Franco da Milano e Lorenzo, sempre da Milano, che aspettano dall'inizio di Real Madrid-Roma di ieri sera. Franco, buongiorno. Ciao gente, saluto all'Etherman Sportivo Pardo. Buongiorno a tutti. Una cosa, io sono rossonero, ho avuto la fortuna di vedere il Milan in più fasi in Champions. Bisogna dire una cosa, per vincere le partite in Champions, soprattutto gli ottavi, devi avere gli uomini di grande personalità, e io sinceramente in questa Roma non ne ho visti, non ne vedo, nella Juve ne vedo pochi, però tutto sommato, cioè, il nostro limite italiano è questo, possiamo arrivare giusto agli ottavi e quarti. L'anno scorso la Juve è arrivata in finale perché aveva uomini comunque di grandissimo spessore, di grande personalità, e ci hanno messo del loro. Però Franco, poi, mi sembra che ce li abbia anche quest'anno, perché magari sono giovani o acerbi, però indubbiamente. Un'ultima cosa, sì. Sul discorso degli addii, la Roma, come anche la Juve, come anche il Milan stesso, avrebbero dovuto prendere esempio il Real Madrid quando Raul è andato via dal Real Madrid. Raul ha preso e è andato a fare gli ultimi due anni allo Schalke, ma con beneplacito del Real Madrid, senza nulla, cioè ha fatto la stessa carriera del Totti, del Maldini stesso, che purtroppo ho potuto constatare io vedere a San Siro, penosamente purtroppo, ahimè per lui, negli ultimi due anni essere sverniciato più e più volte. Però detto questo, voglio dire, bisogna prendere atto che insieme alla società, quando uno arriva a una certa età, e dire benissimo, diciamo, io ho dato tanto, vi ho dato tanto, arrivederci, grazie, tutto lì. Pierluigi, cosa ne pensi? Non è un parallelo blasfemo questo, No, ma questo ci sta come ragionamento, e che poi questa razionalità, questa logica, io sono convinto che Totti avrebbe potuto gestirla diversamente questa situazione, e che probabilmente, se da un punto di vista di, se io fossi il suo consigliere mediatico, cosa che non sono, penso che sicuramente si poteva far meglio, no? Perché questa situazione di imbarazzo che c'è attorno a un campione così grande non è bella, non se la merita lui, no? Rischia sia pure soltanto in maniera temporanea di buscare una carriera grandiosa e un amore assoluto nei confronti della sua squadra. Quindi sicuramente non è stata gestita benissimo da Totti. Però c'è anche poi il piacere di un giocatore, cioè poi alla fine, secondo me, esattamente come Del Piero a un certo punto ha deciso di andare a giocare in Australia, per quelli che vanno in India, sì, vabbè, ci sono anche i soldi, ma forse c'è anche la voglia di continuare a giocare, paralmente. No, ma ho capito, però Del Piero è andato via dopo che la Juventus ha detto grazie, arrivederci. Sì, sulla Roma c'è questa situazione di fondo, che secondo me Pallotta, che anche ieri sera, è veramente il classico americano, cioè il classico signore simpatico che ti dice tutto, no? Che ti parla come se ti conoscesse da anni, che è molto aperto nei modi, e quindi probabilmente qualche dichiarazione, anche qualche dichiarazione forse un po' eccessiva. E poi dal suo punto di vista, secondo me, lui Totti l'ha confermato, nel senso che lui non ha un problema Totti, perché sa che Totti è un grandissimo valore di questa squadra. Un anno fa onestamente era anche diverso, perché Totti veniva da una stagione nella quale era stato protagonista, ma in ogni caso è ovvio che prima di rompere con Totti, la Roma si deve pensare un miliardo di volte e non deve arrivare al punto di rompere con Totti. Quindi questo Pallotta se no lo fa benissimo. Diverso è l'aspetto di giocare, cioè dal punto di vista economico, dal punto di vista del budget, dal punto di vista del rispetto dell'uomo, io credo che non è che Pallotta abbia cambiato idea, cioè il contratto lui glielo fa domani mattina, perché non è un problema di budget, è un problema di gestione certo, di gestione, di gestione comunque di un giocatore che è chiaramente è fisiologicamente al tramonto, che però avrebbe voglia di continuare a giocare. Lì le strade sono due: o gli fai il contratto appunto domani mattina e Totti l'anno prossimo gioca ancora e ripete la stagione che sta facendo quest'anno, grosso modo, elevando gli infortuni naturalmente. Oppure prendi il coraggio di domani e dici: Francè, a Roma da giocatore no, se vuoi con un'altra carica. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Guarda, vedi che Walter Novellino è un uomo di parola? Eh? L'avevamo cercato stamattina. Grande. Lui... Walter, buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno a tutti. Dove stai andando? Posso chiedertelo? Sto andando a prendere mia figlia. A prendere tua figlia? Sì. Alla vocceria, eh? No, non c'è la macchina, te vado a prendere. Tutto senti, a posto. Ma vai a allenare il Palermo? Mi piacerebbe allenarlo, sì. Molto, sì. Vediamo. Insomma, mi piacerebbe allenarlo. I margini per la salvezza, secondo te, ci sono? Ma vi siete sentiti? Com'è la situazione? Fai il cronista, Walter. Fai cronista. Ok, sono alzato stamattina, sono andato a allenamento. No, di corsa, per me. Niente, ho sentito anch'io come voi i media, ho letto. Ho sentito delle telefonate. Aspettiamo, vediamo un po' da cosa possono abbonarci le cose, via. Aspettiamo, ma non tantissimo. Cioè, aspettiamo qualche ora. Qualche ora. Domenica c'è una partita, come vengo a farla io, ecco, vorrei, non è che viene spostata la partita c'è, ecco, anche perché relativa cena con i ricci, quindi vedi tu, se va a allenare il Palermo ti trovi Pardo a commentare la prima partita, ecco, non so se è almeno devo farmi comprimere che ha commentato la partita della Roma in modo eccezionale. Vabbè, esagerato. No, però veramente che... mia moglie a un certo punto diceva: ma fa il tifo per la Roma? Sì, dico, fa il tifo per la Roma. Italiano. No, non ci mancherebbe, anzi, sei stato bravissimo. Tatticamente e tecnicamente sei molto preparato. Grazie, quindi posso venire a fare il secondo? Puoi venire a fare il secondo? No, il tattico. Vabbè, vi vedete probabilmente, magari vi vedete a Palermo. Dicono in inglese I hope. Spero, dai. Grazie, Walter. Ciao, grazie. Ciao, Walter. Buona giornata. Bocca al lupo. Beh, ora abbiamo capito tutto, no? Mi pare che sia capito. Mi sembra no? Abbastanza evidente. Insomma, domenica te lo trovi. Sì. Incontri Novellino. Adesso incontriamo Lorenzo da Milano, se non si è addormentato al telefono. No, ci sono. Grande, grazie per la convocazione. Io sono un tifoso della Roma e volevo chiedere a voi un giudizio su Dzeko. Sentivo che ne parlavate in precedenza. Per me la partita di ieri segna indiscutibilmente la fine di questo giocatore, che mi sono andato a vedere le statistiche. L'anno scorso ha fatto 32 presenze, ha fatto 6 gol, nessuna di questi in Champions League, e tutte le statistiche della Roma dicono che con Dzeko la Roma, che ha il miglior attacco del campionato, segna meno che senza Dzeko. E alla luce di questo volevo chiedervi se ha avuto senso comprarlo, e che cosa fareste voi se foste Spalletti da qui fino alla fine del campionato, dove la Roma si gioca il secondo posto. Questo è indubbiamente il tasto da toccare, uno dei tasti da toccare sulla pianoforte a Roma, Pierluigi. Non si può più girarci intorno. A me, secondo me, Dzeko è un grande giocatore che però in questo momento è totalmente bruciato. No, secondo me Dzeko ha vissuto delle grandi stagioni, soprattutto a Wolfsburg, da grande giocatore. L'anno scorso ha fatto 6 gol, quest'anno ne ha fatti 8 in questo momento, ma ha avuto una discontinuità. Quello che sottolineava anche Aldo Serena ieri in telecronaca è proprio la mancanza di grinta in certi momenti. Secondo me, no? Di fiducia anche. Cioè, non... Sì, cioè, la cosa positiva è che può sembrare banale, ma è un tutti mi dicono che è un bravissimo ragazzo, cioè non è sicuramente un attaccante, non è sicuramente un attaccante egoista, non è sicuramente, è uno che comunque continua a giocare per la squadra, di palloni gliene sono arrivati pochi, soprattutto all'inizio aveva la squadra che giocava poco per lui, però sicuramente l'insieme di palle gol fallite clamorose, cioè lui ha una collezione di palle gol clamorose, sì, anche importanti, dai, gioca con il gorillone sulla spalla questo ragazzo, Però questa cosa qui pesa. Poi probabilmente, sai, Dzeko non è un attaccante che è il massimo del cinismo, no? Cioè non è Inzaghi, è un attaccante di quelli che fanno un grande lavoro per la squadra e che poi negli anni buoni segnano anche molto. La verità è che secondo me lui ha avuto una squadra che non ha sicuramente giocato per lui, quindi la sala è stata in salita, ci ha messo del suo, ha fatto molti errori, ha avuto degli infortuni e quindi sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Sull'atteggiamento tattico di ieri ero abbastanza perplesso, ti dico la verità, perché pensavo che Pjanic e Keita avrebbero sofferto molto lì mezzo al campo. Anch'io. Cosa che di fatto non è successa, però non lo so, non so se poi tornando nel suo candido lettino Spalletti si sia pentito di aver fatto questo. Ma io infatti non me l'aspettavo, nonostante gli annunci praticamente ufficiali, io mi aspettavo grosso modo la formazione dell'ultima Roma, cioè quella che ha distrutto la Fiorentina con Perotti, falso 9 e le due ali. Poi vabbè, è andata così. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Anzi, ciao, no, ci vediamo domani. Domani vengo, ti aspetto. Vengo domani. Vengo sempre se non vado a fare la sessione allenamento a Palermo con Novellino. Che da, tattico. Sì, da tattico. Portati l'iPad che da Zamparini. Del Moscardino. Sì. Zamparini, tra l'altro, ha detto. Ha spiegato, dopo ve lo faccio sentire. Zamparini che spiega, ma Iachini, gli ho comprato anche l'iPad che costa parecchio. Allora, GR, torniamo subito. Signori, alla prossima! Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data. Ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! In collaborazione con Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Tutti convocati. Dunque, come sentito, come avete sentito, svelato l'arcano, con ogni probabilità sarà Walter Novellino che ha appena parlato con noi, il sostituto di Iachini sulla panchina del Palermo. E chissà se anche a lui Zamparini darà l'iPad. Io da una settimana, 8 giorni, mi sento tutti i giorni con Iachini, con i messaggi. Gli ho comprato un iPad perché è un allenatore che anche senza iPad oggi secondo me è uno strumento indispensabile per collegarsi con tutto, glielo ho regalato. Avete capito, sto ingrato. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, volevo chiedere un vostro parere su il comportamento di un altro presidente friulano come Zamparini, Pozzo con Colantuono. Ah. Visto che il Friuli è un po' distante da tutti, anche dai media, una volta ogni tanto parliamo anche dell'Udinese, no? Sì, che sta vivendo una stagione storta, ma ogni tanto capita. Storta è di poco. Ogni tanto capita, ogni tanto capita, ma il presidente è da gennaio che conferma ogni settimana Colantuono, i risultati sono quelli che si vedono. Oh. Volevo sapere un parere di Pardo. No, mio parere è che Pardo, se vuole glielo chiediamo domani, ma il mio parere è che se crede nel lavoro di Colantuono non vedo perché mandarlo via, cioè non è necessario, se tu credi nel lavoro di un allenatore, mandarlo via. L'Udinese, ripeto, mi sembra stia vivendo una stagione storta, come ogni tanto a Udine, ed è fisiologico, possono capitare. Non mi sembra sia stata una gran pesca di giocatori quella effettuata nelle ultime sessioni di mercato. È una squadra chiaramente indebolita rispetto al passato. È chiaro che Di Natale agli anni che hai sono tanti e non più in grado di risolvere il problema dei gol. Alla fine l'Udinese credo centrerà la sua risicatissima salvezza. Piuttosto il discorso è un altro, bisognerebbe capire se in questo momento per la famiglia Pozzo è più importante l'Udinese o è più importante il Watford, che è una miniera d'oro, come sapete. A proposito di uomini che hanno creato qualche bel casino, è già cominciata questa musica. La nazionale è sempre un onore, no? In questo momento non credo, in futuro poi tutto è possibile, e quindi insomma in futuro se ne riparlerà vedremo. Cerco e sono sereno come sono sempre stato, cerco di essere concentrato e pensare partita per partita, poi i voci, i cosi qua là, non è che mi interessano più di tanto. Con la società siamo in piena sintonia, ho ancora l'anno di contratto, non vedo il motivo della fretta. Quando ci sarà il motivo ci siederemo al tavolo per valutare il futuro. Il futuro mio è in mano alla società. La società ha delle opzioni per diversi anni e quindi dipende molto dalla società. Le chiacchiere le lascio agli altri, mi interessano i fatti, perché in questo momento per me c'è solo il Sassuolo, non ci sono altre considerazioni da fare. Alessandro Alciato da Sky, ciao Ale. Ciao amici, ciao. Buongiorno. E beh, bel putiferio ieri, eh. Bastato un tuo tweet per far correre Mihajlovic come neanche ai bei tempi, che non era un grande scattista. No, in realtà è stata una notizia che ho dato la sera prima a Sky Sport 24, ma insomma ci stava, era prevista anche la smentita poi di Sinisa Mihajlovic, e dal suo punto di vista credo ci stia, perché vuol tenere l'ambiente compattato fino alla fine, è un allenatore serio e quindi era nelle cose la smentita di ieri. Poi insomma io dico che il 1° luglio, poi insomma capiremo molto per quanto riguarda il futuro delle varie panchine in Italia. La mia sensazione detta ieri è proprio questa, cioè è chiaro che non poteva andare lì e dire è vero, la storia finisce qui, anche perché è sotto contratto, i suoi soldini ci terrà e quindi se ne verrà fuori nella maniera più elegante possibile, io credo, da questa storia, la maniera più corretta possibile, no Alessandro? Ma sì, poi sì, credo anch'io, ne sono sicuro anch'io, però cioè, la cosa sotto gli occhi di tutti è che non possono più andare avanti, no? Insieme a lui e Silvio Berlusconi, perché ogni volta il presidente del Milan ha qualcosa da dire sull'operato di Sinisa Mihajlovic, e spesso insomma Mihajlovic anche ha risposto, no? A queste esternazioni presidenziali. Ecco, a Berlusconi storicamente non piacciono gli allenatori che prendono una posizione netta a proposito delle cose che lui dice. Però insomma, al di là di tutte queste parole, dice anche il 1° luglio il Milan avrà un nuovo allenatore. Sì, questo l'abbiamo capito tutti. E su quella panchina secondo te chi va? Aiutami a mettere a posto questo gigantesco puzzle. Piace sicuramente Di Francesco, di cui si è parlato in questi ultimi giorni. Non riesco ancora a capire perché non piace Donadoni, che anche a Bologna sta facendo un lavoro egregio, ma invece piace molto alla federazione per la panchina della nazionale. E secondo me insomma è ancora presto per capire chi sarà il successore di Mihajlovic. A oggi, ma sottolineo a oggi, Di Francesco ha molte chance, però poi insomma il mercato ci ha insegnato che magari un'intuizione dell'ultimo momento, un allenatore che si libera all'ultimo momento può diventare il favorito. Oggi Di Francesco è quello che piace e piace molto. Sì, Mancini quindi rimane all'Inter o se la gioca con Donadoni per la nazionale, secondo te? Io credo se la giochi con Donadoni per la nazionale, con Donadoni oggi in vantaggio, non so se leggero o non leggero rispetto a Mancini. Ecco, se dovessi scommettere il mio euro su Mancini ancora sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione, magari non lo giocherei, anche perché lui spesso dice che cioè trova molti difetti al calcio italiano, l'ha fatto anche no, a Coverciano nell'intervista sì. Proprio noi a Sky Sport 24, quindi allenare la nazionale sarebbe un onore perché in qualche modo puoi tentare di incidere, però magari una panchina estera che può essere come sappiamo quella dello Zenit, ma non solo, può essere una cosa positiva per lui, può però essere. Dovessi giocare quell'Euro lo gioco su Mancini lontano dall'Inter. Sì, anch'io. Qualcuno dice anche che Sarri potrebbe allontanarsi da Napoli, nonostante conosciamo benissimo questa storia dell'opzione De Laurentiis che dice rinnovo io quando voglio, le condizioni sono già decise eccetera, però la mia sensazione è che a questo punto Sarri potrebbe avere anche il coltello dalla parte del manico. Sì, Sarri sicuramente ha fatto delle cose straordinarie, le sta facendo ancora e sta andando oltre le previsioni, credo anche sue. Sicuramente lui vuole di più a livello economico ma anche a livello di squadra nella prossima stagione rispetto a questa, perché che il Napoli arrivi primo o arrivi secondo a fine di questa stagione, ecco, nella prossima le aspettative intorno alla squadra chiaramente esploderanno in senso positivo, perché si riparte da una posizione molto alta e si riparte da un allenatore a cui verrebbe chiesto tantissimo, cioè molto di più di questa stagione. Lui già tantissimo lo sta facendo adesso. Quindi no, davvero sarà un'estate caldissima, ma da settimane lo stavamo raccontando, adesso di giorno in giorno ne abbiamo le prove. Sarà un'estate, diciamo, anche i colleghi che si occupano del calciomercato stanno già diventando matti, che vadano in vacanza adesso, sì, soprattutto pensando al Palermo in questi giorni. Palermo va novellino, Palermo novellino, sì, pare in netto vantaggio in questo momento. Guarda, l'abbiamo sentito 10 minuti fa e lui, insomma, ha grosso modo confessato. Ho sentito, però sai, cioè io finché non vedo le firme quando si tratta di Zamparini e Palermo, no. ha detto che va a Palermo se danno anche lui l'iPad, se no non va. Allora credo sia fatta, dai. perché a Iachini il suo se lo tiene. No, un'ultima cosa, volevo leggere con te queste dichiarazioni di Sacchi, che insomma, che tra lui ed Allegri corre sempre un ottimo sangue. Allora, e anche tra lui e la Juventus. La Juve, dice Arrigo Sacchi, è 10 anni avanti a tutte le altre per coesione e competenze. I suoi limiti sono i verbi. Noi al Milan ne coniugavamo 3, vincere, convincere e divertire. La Juventus ne coniuga 1, vincere. È una debolezza. Si dirà, ma in Italia continua a vincere, e io dirò, anche il Rosenborg vince sempre lo scudetto in Norvegia. Ma cosa conta? La cosa che conta è la Champions League, e lì la Juventus fa fatica. Ma comunque è arrivata in finale, a riga. L'anno scorso, non ha fatta tanta non di fatica, fatto ti sembra? Non tantissimo. E senti questa, l'avrei letta su Conte. Conte è un autentico fenomeno, lui ha grande ammirazione per Conte, deve solo spogliarsi di una certa italianità, mentre su Allegri dice: io divido gli allenatori in 3 categorie. La prima è quella che comprende un piccolo drappello di geni, di innovatori che mettono gioco al centro del progetto. La seconda è quella degli orecchianti che seguono la moda senza sapere un granché. La terza riguarda quelli orgogliosamente aggrappati al passato, che fanno della tattica esasperata il loro modus operandi. E Allegri è a metà tra la prima e la seconda, gli vuole molto bene. Non c'è stato mai grande feeling, anche con certi litigi. Allegri cosa deve dimostrare? Appunto, Allegri è arrivato in finale di Champions l'anno scorso e non nessuno ci sperava. Adesso mi sembra già una vittoria rispetto all'andazzo generale, il fatto che si pensi alla Juventus come una squadra che può andare a Monaco e vincere, ed è una squadra che può andare a Monaco e vincere. Credo ci sia molto di Allegri in tutto ciò, c'è molto della società, però poi non dimentichiamoci, no? Spesso parliamo degli allenatori e dei giocatori, ma dietro c'è un lavoro importante della società, di Marotta, di Paratici, di cui si parla sempre troppo poco. Assolutamente. E quindi, insomma, non mi sentirei di cosa deve fare Allegri per convincere Arrigo? Che cosa può fare Allegri per convincere? Non c'è verso. Forse portarlo a fare un giro sul gommone. Forse questa è l'unica. Però a proposito di allenatori, posso dire una cosa che mi ha colpito molto positivamente ieri? L'arrabbiatura di Spalletti, perché certo. Il 99,9% degli allenatori sarebbero presentati in conferenza stampa dicendo: vabbè, abbiamo perso, però abbiamo creato tante occasioni, potevamo vincere e questo va bene. Questo sì. Ah, ci siamo persi Alessandro Alciato. Vabbè, lo ringraziamo comunque, andiamo da Luigi. Buongiorno, provincia di Lecce. Buongiorno, grazie per la convocazione, anche se non sono al meglio perché ho un ginocchio rotto. Quindi cosa da Cosa da calcio? Cosa da calcio? Ma menisco, no? A livello, se no un legamento, a livello dilettantistico. Legamento brutta bestia. Senta, io volevo fare un passo indietro in relazione al caso Totti. Non sono molto d'accordo con voi sulla gestione ieri di Spalletti, perché se voi avete visto ovviamente la partita, lui lo fa entrare subito dopo il 2-0, quindi la partita finita. Quello è un omaggio alla carriera di Totti, quindi io l'ho visto non come un'umiliazione, però come una passerella, così. L'ovazione per Del Piero qualche anno fa, Del Piero aveva fatto due gol, aveva risolto la partita, cioè Totti non aveva bisogno di questa tra virgolette passerella. Quello ha fatto capire, secondo me, che Totti non gli serve più, perché lo fa entrare quando ormai la partita è risolta, cioè sì. Non so se sì, siete d'accordo. Sì, allora io non starei a fare il rumorometro sull'applauso di tributato a Del Piero, quello tributato a Totti. È chiaro che quello di ieri sera per Totti era un grande omaggio del Bernabeu. Spalletti ha già dimostrato con i fatti che Totti in questo momento come giocatore non gli serve. Ieri però ha avuto l'eleganza, e credo che Totti abbia gradito, anzi ne sono certo, ha avuto l'eleganza di concedergli questo tributo di uno degli stadi più belli al mondo, più importanti al mondo, su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Dunque, ieri non ci ho visto niente di perverso. Poi, se invece torniamo al discorso dei tre minuti della gara di andata, allora possiamo riaprirlo, ma non so chi possa averne ancora voglia, in tutta onestà. Giuseppe, buongiorno Firenze. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io volevo fare delle considerazioni su Zamparini. Sì. Allora, io quest'anno condivido tutto quello che ha fatto Zamparini. Sì. Proprio tutto. Perché è tifoso del Catania? No, assolutamente, perché sono tifoso del Palermo e perché ho visto la partita. È contento di andare in Serie B? No, purtroppo diciamo questo rischio è molto forte. Penso che Novellino, gli faccio in bocca al lupo, ci possa tirare fuori da questa situazione, però ecco, non dobbiamo dimenticarci che il nostro percorso prima di Zamparini. Abbiamo sbagliato Serie B, Serie C, Serie Azione, quant'altro. Adesso abbiamo sfogliato l'UEFA, che Zamparini abbia fatto delle cose per il Palermo è indubbio, che abbia fatto anche un sacco di fesserie mi sembra altrettanto pacifico. Diciamo, bisogna prendercelo per com'è, chiaramente la città di Palermo e il tifosi di Palermo meritano anche di più, diciamo, meritano serenità, stabilità. Questo momento mi sembra stabilità e serenità mi sembra difficile trovarlo con un presidente che cambia 9 allenatori nel corso di una stagione e che comunque con una squadra che non è forte, perché Palermo quest'anno non è granché competitivo, però in questa stagione poteva tranquillamente salvarsi. Secondo me va giù, perché Frosinone e anche lo stesso Carpi sono due squadre in questo momento ben più serie del Palermo, quindi è una retrocessione in qualche modo costruita involontariamente in questo caso dalle follie vere e proprie di un presidente molto simpatico, però spesso folle come Zamparini. Che piacere, Roberto Ungaro. Buongiorno, ciao Robin. Ciao Carlo, come stai? Buongiorno. Bene, bene, abbastanza bene. Senti, ci avviciniamo al 20. Fammi qualche pagella sui test che abbiamo visto fin qui. Guarda, ti uso una metafora per la situazione generale. Bar sport di paese, conosci bene, solita partita carte, solito gruppo di vecchietti, però c'è una novità, il mazzo di carte è cambiato, sono nuove, rigide, con una grafica diversa, quindi non viene la solita gestualità, gli sguardi sono diversi, i vecchietti si sono accorti di questo. Nuovo regolamento, l'abbiamo già detto più volte, e allora ti dico le protagoniste, come mi hai chiesto, Yamaha davanti a tutti, e Orge è super, un secondo più veloce di tutti nell'ultima di campionato d'inverno, sono 3 prove come tutti sapete, ovvero Malesia, poi Phillip Island, Australia e infine Qatar. Quindi Lorenzo parte davanti, la Yamaha è quella che ha retto meglio il cambiamento, la moto è a posto, stabile, hanno risolto tutto, ma anzi non hanno avuto problemi. Valentino c'è, usando la buona metafora di Meda, e è costante, non ha fatto il tempo sul giro, ma è lì concentrato, sul passo è molto veloce, sa di potersela giocare, grande sorpresa. Honda, di solito protagonista, è invece quella che ha più problemi. Ha un motore nuovo, l'albero che tira al contrario. In più è quella che ha dovuto subire la nuova centralina, perché dovete sapere che Honda si è sempre fatta all'elettronica, molto sofisticata per il suo motore. Quindi ricevere questa Marelli, che invece è meno prestazionale, è diversa, e in più è meno prestazionale, grosso, grosso problema. La moto è instabile, in Qatar addirittura sono tornati al telaio vecchio, si dice, Marquez è nervosissimo, poi ha trovato il bandolo della matassa nelle ultime due ore ed è riuscito a fare un quarto, però grande nervosismo. Dani uguale, Honda che di solito parte avvantaggiata, invece dietro insegue, questa grande novità. Sì, passiamo sono curioso anche delle italiane, ma la Honda, avevamo in qualche modo pronosticato la nuova centralina, la vera forza dell'Honda è quel cuore elettronico, in qualche modo l'avevamo pronosticato anche l'anno scorso, ma quanto è distante dalla Yamaha e soprattutto una scuderia come l'Honda, quanto tempo ci può mettere ad arrivare al passo della Yamaha? Molto poco. Appunto. Come capacità, quello che rallenta i giapponesi, Carlo, è il metodo, nel senso che non sono veloci, perché lì la piramide viene rispettata e quindi quando c'è una procedura, non è come noi italiani che siamo molto fantasiosi e a volte le cose vengono bypassate, ci si inventa, sai com'è, no? Invece lì la procedura a volte è una frizione, è un freno a mano che dilata i tempi, però le capacità e il reparto corsa della HRC fa paura, assolutamente arriverà. Solo che negli ultimi 15 anni Honda è sempre partita davanti a tutti, e soprattutto grande intesa con Dorna, i regolamenti sono stati fatti un po' per Honda. Adesso invece, questa è la grande sorpresa che rende ancora più bello questo inizio stagione, c'è questa novità, cioè Honda arranca, quindi Marquez non riesce tanto a guidare come faceva lui, spigolando, derappando al posteriore, la moto è molto cattiva, si impenna, ci sono troppe cose nuove e soprattutto Honda ha dovuto accettare questa nuova centralina Marelli, mentre invece ha sempre sviluppato la sua. Yamaha ha sempre usato Marelli, Ducati ha sempre usato Marelli, capisci che ok, ti danno una centralina meno prestazionale, però è quello il metodo, cioè capisci? Certo. E allora questo è un grosso punto di domanda, però dal punto di vista dello spettacolo secondo me è positivo, perché vedere come sarà messa la Honda e soprattutto come reagiranno, cosa faranno per, si possono anche nervosire comunque. Passiamo alle italiane, Ducati grande confusione, hanno usato addirittura tre moto, tre telai, tutti diversi. Hanno girato col passo, hanno studiato cosa fare, non hanno cercato il tempone sul giro con la gomma morbida, quindi sono indietro. Curiosità, in Qatar la prima Ducati è di Scott Redding, quindi clienti, ed è secondo dietro Lorenzo, grande sorpresa. Loro dicono di essere comunque a posto sulla moto. Qatar, ci ricordiamo le spuole dell'anno scorso, è molto favorevole alla Ducati, quindi sicuramente saranno lì per giocarsela anche loro. Bisogna vedere poi nel proseguo della stagione, questa è la grande. Stoner probabilmente una gara la farà, quindi questo sassolino nelle scarpe dei due ufficiali c'è e rimane ben grosso. E poi la sorpresa Vignale. Suzuki è cresciuta, ora ha più motore, e Vignales, che è l'uomo del mercato perché è il giovane più emergente ed è quello che adesso tutti vorrebbero, ascolta terzo in Qatar e soprattutto primo in Australia nella prima prova del campionato d'inverno delle tre gare, non gare ma tre sessioni, quindi questo Vignale si inizia a dare fastidio, è lì costante davanti, allora viene da chiedersi ai quattro, ai fantastici quattro, ci sarà anche questo quinto? Qualche volta sì, qualche esploit li farà, speriamo che riesca ad essere anche costante. Comunque a mio avviso una bellissima stagione. Ci divertiamo, ho l'impressione che ci divertiremo. Al Bar Sport ne vedremo delle belle. Al Bar Sport ne vedremo delle belle e spero anche su Radio 24. Grazie Roberto Ungaro, prestissimo. Speriamo, ciao, un saluto a tutti, ciao. Perfette, pagelle di Ungaro, avete capito tutto. Siete pronti per aspettare il 20 e iniziare Moto Mondiale e Formula 1. Cercheremo di attrezzarci anche noi. Intanto grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, a Andrea Roccabelli in regia, Federico Binne in redazione. Ci sentiamo domani con Pardo alle 14. Saluti!